Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Inizio di settimana e nuova puntata di Focus Economia, 17.06 minuti, ben trovati allora da Vincenzo Miglietta. Settimana che inizia di fatto a fari spenti per le borse internazionali. Come dicono gli analisti, in questi casi i mercati sono ormai in modalità estiva, presentando volumi non elevati. In più la debole movimentazione è anche figlia dell'attesa dell'appuntamento di giovedì della Banca Centrale Europea con Francoforte, che dovrebbe lentamente muoversi verso la normalizzazione della politica monetaria. Anche l'apertura piatta di Wall Street non ha portato cambiamenti. I mercati restano così cauti in attesa delle trimestrali negli Stati Uniti e stasera, mercati chiusi, lo ricordiamo, usciranno i dati di Netflix. Tutto ciò si riflette almeno per quanto riguarda Piazza Affari, con un FTSE MIB in questo momento più 0,01% a 21.496 punti. Guardiamo velocemente i migliori e i peggiori. UX più 3,33%, Telecom Italia più 1,86%, Salvatore Ferragamo più 1,67%, Saipem più 1,14%, Prismian più 1,07%, sin qui i migliori, i peggiori: A2A meno 1,43%, Banca Generali meno 1,18%, Azimut meno 1,04%, Unicredit meno 0,88%, Mediobanca meno 0,72%. Questi i peggiori, i più movimentati, i più scambiati: Intesa San Paolo, Unicredit, Enel ed Eni. Gli altri listini europei: DAX Francoforte meno 0,34%, FTSE 100 Londra più 0,39%, Parigi meno 0,04%. Dicevamo di Wall Street relativamente in parità: Dow Jones più 0,04%, Standard & Poor's 500 più 0,10%, Nasdaq più 0,10%. I cambi euro su dollaro in questo momento 1,1469, quindi euro su dollaro. Lo spread poi dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 165,50 punti, meno 1,72%. Sin qui dunque gli andamenti dei mercati, che approfondiremo tra circa mezz'ora, ma nella puntata di oggi spazio alle conseguenze del caldo e della siccità sulla filiera agroalimentare, quindi al via la possibilità di richiedere il bonus asili nido. Il punto sull'anticipo pensionistico, i nostri giovani e il lavoro, chi un posto ce l'ha, chi lo cerca e chi non lo cerca proprio. Gli italiani hanno purtroppo qui il record negativo di quest'ultimo aspetto, ovvero il 19,9% contro l'11,5% della media europea. Infine uno sguardo anche all'estero, a quanto sta accadendo in Venezuela, un paese ricco di petrolio ma con un'economia sull'orlo di una crisi. Vi ricordo i nostri numeri, i nostri contatti: 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Focus Economia o il sito di Radio 24. Passiamo ora alle notizie in breve. Per le notizie in breve, le materie prime: l'oro 1234,6 dollari l'oncia più 0,5%, il petrolio in calo a New York a 46,40 dollari, barile perde lo 0,3% nelle prime contrattazioni. L'economia internazionale con un ampio spazio alla Cina, perché parliamo di prodotto interno lordo, vendite al dettaglio di giugno e produzione industriale. Per quanto riguarda il PIL della Cina, è cresciuto del 6,9% nel secondo trimestre, sopra le attese degli analisti che si attendevano un rialzo del 6,8%. Lo ha annunciato l'Ufficio Nazionale di Statistica. Nei primi tre mesi dell'anno il PIL era cresciuto sempre del 6,9%. L'economia nazionale ha mostrato di aver mantenuto lo slancio per uno sviluppo stabile e robusto nella prima metà del 2017, ponendo solide basi per raggiungere gli obiettivi annuali e migliorare le prestazioni, e quanto ha dichiarato il portavoce dell'Ufficio Nazionale di Statistica. E sul trend del prodotto interno lordo, le vendite al dettaglio, che sono salite in Cina a giugno dell'11% su base annua, in rialzo rispetto al 10,7% del mese precedente e del 10,6% stimato dagli analisti. Si tratta, secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, del ritmo più veloce dal dicembre del 2015. E per quanto riguarda le vendite al dettaglio, a trainare soprattutto le telecomunicazioni, pensiamo ad un più 18,5%, poi il mercato delle auto più 9,8% e i materiali per l'edilizia più 15,2%. E accelerazione a giugno anche per la produzione industriale, con un rialzo annuo del 7,6%, oltre il 6,5% relativo ai due mesi precedenti e alle stime degli analisti. Il dato nel primo semestre, secondo l'Ufficio di Statistica, è del 6,9 a fronte del 6,8 del primo trimestre. Rimaniamo sempre in Cina, Uber sospenderà i propri servizi nel centro del gioco d'azzardo cinese di Macao. Lo ha annunciato la stessa Uber, spiegando che sta temporaneamente fermando il servizio poiché non è in grado di garantire un ambiente imprenditoriale per continuare ad operare. Da tempo la società di San Francisco ha problemi con le autorità di vigilanza locali. Dopo le multe comminate agli autisti del gruppo nel territorio cinese, si trova anche a fare i conti con la forte concorrenza di altre start-up. Da Macao ci spostiamo in Venezuela. I risultati della consultazione popolare che si è svolta ieri indicano che il 98,4% dei circa 7,2 milioni di partecipanti ha respinto la proposta del presidente Maduro di formare un'assemblea costituente per modificare la carta fondamentale del paese. Il rettore dell'Università Pedagogica Sperimentale Libertador, Raúl López, membro della Commissione dei Garanti della Consultazione Simbolica, ha detto, secondo l'agenzia di stampa spagnola EFE, che almeno il 98% dei partecipanti ha votato sì alla bocciatura di un'assemblea costituente. E di questo aspetto ne parliamo più tardi, dopo i mercati. Ricordiamo che il Venezuela è il paese con le maggiori riserve di petrolio e quindi fa un po' strano, anzi decisamente balza agli occhi il fatto che un paese del genere con una tale ricchezza sia in questa difficoltà. Passiamo poi all'Italia. Parliamo di pensioni. Sono state presentate 66.409 domande per accedere all'APE social e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Lo fa sapere l'INPS comunicando i dati definitivi delle istanze inoltrate entro la scadenza di sabato scorso, quindi sabato 15 luglio. L'istituto spiega che sono arrivate 39.777 richieste per l'indennità di APE social, non è altro che l'anticipo pensionistico, e 26.632 per i lavoratori precoci. È stato così superato il tetto previsto per quest'anno, pari a 60.000 unità. Ed è interessante andare al di dentro di questi dati dell'INPS. Le domande per APE social e pensionamento anticipato per i lavoratori precoci sono arrivate soprattutto dagli uomini. Meno di una su quattro è stata presentata da una donna, precisamente il 23,2%. Decisamente soddisfatto il presidente del Consiglio Gentiloni, che twitta: APE sono 66.000 le domande per l'anticipo agevolato della pensione, un aiuto concreto per chi ha avuto un lavoro più lungo e difficile. E non solo pensioni, oggi giornata importante, perché da oggi scatta la possibilità di presentare la domanda per il bonus asilo nido, richiesta come emerge dalle istruzioni INPS, che potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2017 via web, contact center o patronati. Il beneficio spetta ai genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio del 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Agli italiani sono equiparati i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Il premio è di 1.000 euro e anche questo sarà parte di un nostro approfondimento, ve lo ricordo, dopo il GR delle 18. Un tema sempre caldo è quello dell'occupazione. L'Italia purtroppo risulta agli ultimi posti nella classifica OCSE sul mercato del lavoro. Secondo i dati che mettono a confronto i paesi dell'organizzazione, la percentuale di occupati nel primo trimestre del 2017 in Italia era pari al 57,7% della popolazione in età lavorativa, contro una media OCSE del 67,4%. E stringendo il campione ai paesi G7, la media è del 70,3% contro, lo ricordo, la media italiana è il 57,7, la media europea è del 67,2%, cioè ci sono almeno 10 punti rispetto al nostro paese, percentuali inferiori a quelle italiane si sono registrate nel periodo solo in Grecia e Turchia. E un altro aspetto nel mondo dell'occupazione, uno spaccato di questo settore è l'occupazione relativa ai giovani, e sempre purtroppo ci vede in difficoltà un paese dove il numero di lavoratori autonomi è fra i più alti d'Europa, più del 22,6%, e i giovani, i nostri giovani fra 15 e 24 anni che non hanno e non cercano lavoro, i cosiddetti NEET, NEET è un acronimo inglese, ovvero coloro che non sono né occupati né cercano il lavoro, toccano il record europeo del 19,9%, la media europea è dell'11,5%, cercheremo di capire perché questo dato si è così fossilizzato negli anni, non si riesce a spostarci, e anche qui ne parleremo intorno alle 18:15 di economia, ne parla il presidente di Confindustria Boccia e dice il divario cresce tra imprese che vanno molto bene e imprese che vanno mediamente bene, cresce anche tra cittadini e tra paesi, cresce tra giovani e società, ora serve un pensiero economico che porti la questione industriale al centro dell'interesse del paese, una linea di direzione per ridurre i divari, perché i divari stanno aumentando e questo non è un fatto positivo, così il presidente di Confindustria Boccia, che aggiunge la ripresa c'è e determina il fatto che sulla questione industriale dobbiamo lavorare affinché diventi la grande questione nazionale. E c'è un dato interessante, abbiamo abbiamo dato alcuni numeri non certamente positivi per il nostro paese, nell'ambito del mondo del lavoro c'è però un aspetto che ci interessa e ci piace sottolineare, sempre più donne decidono di mettersi in proprio e ora sono le imprese femminili a guidare la ripresa, e quanto emerge da Donne al Lavoro, la scelta di fare impresa, il focus Censis Conf Cooperative, in cui si rileva che le aziende femminili crescono più della media del sistema imprenditoriale. Su un totale di 6.074.000 imprese registrate, il 21,8% è guidato da donne. Fra il 2014 e il 2016 l'incremento delle imprese femminili è stato dell'1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema imprenditoriale, che non è andato oltre lo 0,5%. Su questo aspetto abbiamo ascoltato il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini. Ascoltiamo. Non è del tutto una sorpresa, ne avevamo una convinzione, però il dato dell'indagine Censis Confcooperative è andato oltre le aspettative. Le imprese al femminile crescono, sia quelle di tipo cooperativo, sia quelle non cooperative, quelle diciamo normali. Crescono forse perché c'è una maggiore flessibilità e la possibilità di conciliare vita e lavoro. Crescono in tutte le zone del paese, compreso il sud. Questo è un dato molto importante e significativo, perché dà una speranza e una fiducia. Crescono in alcuni settori che sono settori strategici, che sono l'agroalimentare, soprattutto la fase la seconda fase di lavorazione dei prodotti, più che il primario classico. Cresce nel settore turistico delle ricettività, i bed and breakfast, e cresce in tutto il settore dei beni culturali. Tre grandi ricchezze per il paese che possono darci la speranza di un contributo alla ripresa. E così dunque Maurizio Gardini di Conf Cooperative. Il turismo è estate, è momento di turismo, è momento anche di fare già dei primi bilanci, con oltre 1,2 miliardi di arrivi internazionali il 2016 costituisce l'ennesimo anno dei record per il turismo, che a livello globale è evidentemente in grado di assorbire tutti quei fattori destabilizzanti che rischiano di mettere in crisi il settore dei viaggi, dagli attentati terroristici in Occidente alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le prime previsioni per quest'anno lasciano ben sperare sul fatto che i flussi proseguiranno con il trend di crescita nel recente passato. Evidentemente però Francia, Gran Bretagna sono leggermente penalizzate dai recenti attentati. L'Italia si consolida in quinta posizione, con 50 milioni di arrivi. Velocemente uno sguardo al clima, perché sarà oggetto del nostro primo approfondimento, e dei suoi effetti negativi sulla filiera agroalimentare. Giugno 2017 è stato il quarto mese più caldo in 137 anni. Vi lascio riflettere su questo, perché noi passiamo proprio al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento, lo dicevamo, che dedichiamo agli effetti di questo caldo anomalo, definiamolo anomalo, ma purtroppo ci stiamo abituando negli ultimi anni. Maggio e giugno decisamente diversi dalle medie che conosciamo, e gli effetti soprattutto sulla filiera agroalimentare si fanno sentire. Ne parliamo e lo ringraziamo con il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Presidente, prima di chiamarla in causa, ricordo alcuni numeri di questo effetto negativo sulla nostra economia, sull'economia che lei ben rappresenta. Luglio bollente in Italia, dove le temperature minime che sono risultate superiori di 2,6 gradi rispetto alla media di riferimento, le precipitazioni sono risultate in calo del 60%, aggravando una crisi idrica di portata storica a livello nazionale, con siccità e diffusione degli incendi. Coldiretti, secondo la Coldiretti, sono stati persi 9 litri di pioggia su 10 ogni anno, salgono solamente negli ultimi due mesi a 2 miliardi i danni nei campi. Presidente Moncalvo, sono ancora questi numeri? Qualcosa sta cambiando negli ultimi giorni? Qual è la situazione? Questi sono i numeri degli ultimi giorni, ma la situazione continua ad essere pesante. La siccità ormai investe i 2/3 della superficie agricola coltivata, e veramente stiamo parlando non solo degli ultimi mese e mezzo, degli ultimi due mesi di difficoltà, ma è tutto un 2017 anomalo, che è iniziato con gelate e nevicate abbondanti, ricordiamo in particolare nelle aree terremotate già colpite dalla tragedia del terremoto, poi le gelate primaverili e poi questa ondata di siccità che non si ferma. A rischio e ormai colpite ci sono tutte le coltivazioni, dagli ortaggi alla frutta, dai cereali al pomodoro da industria, ma anche i vigneti, gli uliveti e anche la preparazione del fieno che sarà utile poi per gli animali nell'inverno, oltre al calo della produzione di latte legato al caldo a cui sono sottoposti gli animali. Quindi una situazione davvero complicata che mai come quest'anno riguarda tutto il paese, dalle punte più a sud alle punte più a nord. Ecco, presidente, parliamo prima della contingenza. Quindi in queste settimane lei ci ha fatto un quadro perfetto di quanto accaduto. Si fa in tempo a rimediare almeno per le produzioni in corso. Poi con lei affronteremo tra brevissimo cosa invece potremo fare nei prossimi anni per evitare che queste situazioni si ripetano. Oggi gli unici rimedi efficaci e diffusi possono arrivare dalle piogge, ma in questa fase paradossalmente purtroppo le piogge molto spesso sono nubifragi, sono grandine che invece di affievolire insomma questa situazione aggiunge danni attraverso i nubifragi che abbiamo visto ancora nelle ultime ore colpire a macchia di leopardo tutto il paese. Quindi quello che c'è da fare è fare un ragionamento serio oggi che abbiamo chiare le immagini e i numeri di questi danni rispetto al futuro, e il futuro non può più essere quello di considerare questa situazione come una situazione di emergenza. Oggi dobbiamo iniziare a parlare finalmente di prevenzione, e dobbiamo farlo in modo strutturato a partire da una considerazione. Questo è un paese in cui piove ancora molto nonostante i cambiamenti climatici, ma noi non riusciamo a trattenere quasi il 90% dell'acqua che cade con le piogge. Allora il tema diventa investimenti strutturali in reti di invasi diffusi sul territorio, manutenzione stretta, ferrea, efficace di tutte le reti che già esistono, e poi la capacità di saper guardare in tempi rapidi a ciò che abbiamo a disposizione, dalle ex cave dismesse che molto spesso sono inutilizzate e potrebbero diventare buoni bacini per l'acqua, ad un utilizzo più intelligente e più efficace delle casse di espansione dei fiumi. Insomma, molto si può fare per riuscire a affrontare una situazione che oggi è emergenziale, ma in realtà sta diventando sempre più una costante delle nostre estati, e che ha a che fare non solo con l'agricoltura, ma ormai ha a che fare anche con livelli importanti di messa a rischio della disponibilità, certo, di acqua potabile. Ecco, dicevamo 30% in meno di piogge rispetto alla media di riferimento, ma lei ci ricorda che comunque l'Italia resta un paese dove piove molto, quindi si può intervenire con invasi, con condutture più moderne che evitino gli sprechi attuali. Sono però discorsi che io sento fare da almeno 20 se non 30 anni, perché non si interviene. Questa situazione ci aiuti a capire che è ora di muoverci davvero. Insomma, in questa fase noi abbiamo intanto ottenuto risorse importanti da devolute a livello nazionale a partire da fondi europei, il piano nazionale irriguo e altre risorse utili per almeno 600 milioni di euro, ma poi dobbiamo fare un ragionamento guardando la realtà. La realtà è che negli ultimi 20 anni noi abbiamo speso, per ogni miliardo speso in prevenzione, quindi in opere strutturali, ne abbiamo spesi 2,5 miliardi in termini di pagamento di danni, peraltro molto spesso parziale e insufficiente. Allora il tema diventa: iniziamo ad investire, perché investire ci consente anche di risparmiare e di evitare dei disastri che fanno spavento. Le competenze le abbiamo tutte, molto spesso sono i nostri ingegneri, le nostre società di costruzione ad andare a fare queste opere all'estero, abbiamo tutta la competenza per farlo qui. Oggi il sistema di consorzi di bonifica è pronto con oltre 230 cantieri per almeno 3 miliardi di euro, che sono opere indispensabili per l'uso, certo, agricolo, ma anche per l'uso ai fini energetici, per l'uso per l'uso idropotabile. Tutti questi interventi, ovviamente, che hanno lo scopo di gestire e raccogliere meglio l'acqua, sono interventi fondamentali anche per ridurre il tema del dissesto idrogeologico, che oggi colpisce l'82% dei comuni italiani. Ecco Presidente, lei lo sa meglio di me, l'utilizzo di acqua ai fini dell'agricoltura e per uso industriale, se non sbaglio, arrivano queste due voci all'80% dell'utilizzo del 100% dell'acqua, il restante ad utilizzo umano. Magari mi corregga su questi numeri, ma la mia domanda è questa: si può fare un'agricoltura, vi state attrezzando per un'agricoltura che sappia affrontare il cambiamento climatico? Negli ultimi 20 anni gli agricoltori hanno investito molto, e oggi con le tecnologie attuali di irrigazione riusciamo ad irrigare meglio e ad irrigare utilizzando molta meno acqua. Oggi il tema è, visto il cambiamento climatico, garantire l'acqua anche in zone in cui in passato non era necessario, non era così importante avere una presenza così capillare, perché il clima magari era sufficientemente generoso. Allora il tema diventa aiutare e fare in modo che l'investimento che le aziende agricole hanno fatto e stanno continuando a fare sia affiancato da un intervento altrettanto efficace dello Stato sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche. Questo è fondamentale per dare un futuro non solo all'agricoltura, ma alla tenuta dei territori e alla tenuta del nostro ambiente, dei nostri fiumi, dei nostri laghi. Certamente, gli agricoltori, tra l'altro, lo ricordiamo, sono i primi soggetti che presidiano il territorio e ce lo lasciano, lo mantengono anche per noi che viviamo in città. Andando nelle varie regioni, eravamo abituati fino a qualche anno fa a dare abbastanza per scontata la siccità nel centro-sud, invece, come lei ricordava, quest'anno andiamo da nord a sud, particolarmente colpito il Veneto. Per il nord-est, qual è la situazione al momento? Le richiedo una domanda abbastanza breve, una risposta abbastanza breve. In ordine di tempo, quest'anno la prima regione a dichiarare lo stato di calamità è stata l'Emilia-Romagna, seguita poi dalla Toscana, dal Veneto, dalla stessa Lombardia, ma ormai abbiamo in ogni regione aree in cui la situazione è davvero critica. È la dimostrazione del fatto che è un problema che riguarda tutto il paese, e sta proprio nel fatto che molta di questa emergenza oggi riguarda anche il nord Italia, riguarda anche il bacino del Po, da cui dipende il 35% dell'agricoltura italiana, solo da quel bacino. Quindi è fondamentale fare un piano di interventi strutturali importanti che consente di creare questa rete di opere necessaria per mantenere l'acqua. È un fatto fondamentale perché garantisce gli agricoltori, ma garantisce la tenuta del territorio. Ricordiamoci che oggi gli agricoltori climatico se non siamo in grado di costruire tutti insieme un sistema di opere in grado di gestire l'acqua e di gestire quindi il rischio idrogeologico. Grazie a Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Di nuovo insieme, 17:35 minuti, Focus Economia, io sono Vincenzo Miglietta. Abbiamo affrontato nel nostro primo approfondimento gli effetti del caldo e della siccità. Ora passiamo ai mercati. Prima però una notizia, diciamo così, legata al nostro primo approfondimento. Noi trasmettiamo da Roma, allora una notizia di servizio: enorme colonna di fumo e traffico interdetto su un tratto della Cristoforo Colombo a Roma e della Litoranea a causa dell'incendio divampato nella pineta di Castelfusano. Il fumo è visibile anche da lontano, secondo quanto si apprende non si escluderebbe l'origine dolosa visto il ritrovamento di in tre punti diversi di tre inneschi. Quindi caldo e siccità che continuano, ci si mette anche la mano dell'uomo. Parliamo ora, come tradizione per Focus Economia, dei mercati. Ci aiuta a capire la giornata nei mercati internazionali e soprattutto a Piazza Affari il collega di Radio Core, il Sole 24 Ore, Ceo Condina. Buon pomeriggio, Ceo. Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ceo, allora partiamo da un quadro generale delle borse europee. Mi sembra sulla parità, ha cambiato più volte direzione nonostante un buon dato del PIL cinese, e tutti scrivono vi è questa calma piatta in attesa della riunione della BCE di giovedì. Ceo. Guarda, le borse hanno chiuso proprio in questo momento, Milano ha praticamente chiuso sulla parità, meno 0,03%, Parigi è ceduto lo 0,1%, Francoforte deve ancora chiudere ma è meno 0,3%, l'unica borsa positiva in Europa è Londra che avanza di mezzo punto percentuale soprattutto grazie alle buone performance dei titoli minerari e delle materie prime. Come dicevi tu, un PIL cinese leggermente sopra le attese, però il dato diciamo che non ha scaldato più di tanto gli operatori, anche perché Wall Street ha aperto anch'essa attorno alla parità, insomma dei segni della debolezza. C'è attesa per la riunione della BCE di giovedì, non tanto per quello che sarà l'esito sui tassi e le decisioni dell'Istituto di Francoforte, ma per quello che potrebbe lasciare intendere il governatore, il presidente Mario Draghi, sull'atteggiamento dell'Istituto Centrale nei prossimi mesi. Ecco, Ceo, adesso andiamo ad affrontare vari titoli e ci dirai come sono andati, ma più in generale, secondo te già siamo proprio in clima estivo con volumi di scambi figli nella loro esiguità del numero proprio del periodo estivo? Diciamo che ci stiamo avvicinando a quello che è considerato il periodo estivo, che magari arriva più verso l'ultima settimana di luglio. Comunque non siamo di fronte, diciamo, certo, a scambi particolarmente vorticosi. Allora, tra i migliori leggo Jux e Salvatore Ferragamo. Sì, una buona performance di tutto il settore del lusso, un po' in scia tutta l'Europa, anche LVMH a Parigi è stato tra i titoli migliori. Per quanto riguarda Milano, a Piazza Affari, Jux Net a Porter recupera il 3%, Salvatore Ferragamo l'1,9%, stiamo comunque parlando di due titoli che venivano da due periodi non particolarmente brillanti, in particolare Ferragamo che non ha diffuso la trimestrale, come poi peraltro può non fare, ma comunque ha fornito agli investitori una indicazione cauta su tutto il 2017. Oggi un piccolo recupero del titolo che si riavvicina a quota 24 euro. Ecco, altrettanto bene Telecom, per movimenti anche sul fronte dei vertici, in attesa di novità immagino sul fronte di Cattaneo. Ci sono voci insistenti di uscita dell'amministratore delegato proprio in rotta con Vivendi, che ricordiamo essere il primo socio. Diciamo che sono voci che ormai si rincorrono da diversi giorni, da diverse sedute. Venerdì il titolo aveva perso il 2,7%, proprio perché si intensificava l'ipotesi di una rottura tra l'amministratore delegato, che per uscire pretende, come stabilito dal suo contratto, una buona uscita di 50 milioni, e appunto il socio di controllo che è Vivendi. Oggi un recupero del titolo che ha chiuso in rialzo dell'1,2%, anche dopo le dichiarazioni del del ministro Carlo Calenda, che ha ipotizzato una collaborazione sul fronte della banda larga, che è un tema molto caldo in Italia, tra Telecom Italia e Open Fiber, che è la società che invece fa capo all'Enel. Quindi movimenti importanti sul fronte delle telecomunicazioni ed ancora bene, decisamente bene, Prysmian. Sì, su Prysmian il tema è quello del consolidamento. Sono almeno 2-3 anni che si parla di una possibile acquisizione da parte di Prysmian del gruppo americano General Cable, che è un altro dei leader mondiali appunto dei cavi TLC, cavi sottomarini. Ecco, negli ultimi giorni il consiglio di amministrazione di quello del gruppo americano General Cable ha dato mandato a JP Morgan per, diciamo, un percorso di valorizzazione della società per i suoi principali soci, scusate il gioco di parole. Diciamo in parole povere, JP Morgan esplorerà anche possibili ipotesi di vendita della società. Chiaramente uno dei principali acquirenti potrebbe essere Prysmian, visto che le indiscrezioni, certo, appunto su una fusione si rincorrono da anni, e quindi Prysmian è subito balzato a rialzo. Ecco, inizio di settimana mi sembra senza particolari prestazioni per le utility, parliamo quindi di società operative nelle varie forniture. Sì, diciamo che oggi a livello europeo i titoli difensivi sono stati un pochino penalizzati, in particolare anche a Milano A2A ha ceduto l'1,2%, Enel ha perso l'1%, ma anche Terna è arretrato dello 0,6%, non una seduta brillante per i titoli dell'energia. Poi ci possiamo concentrare su Salini in pregilo. Leggo che la controllata americana del gruppo Salini, Lane Construction, si è aggiudicata un contratto del valore di 76 milioni di dollari per ampliare una sezione dello State Road Orange County in Florida. E, insomma, sono tutti impegni economici importanti per Salini, che quindi ne riflette positivamente poi sui mercati. Sì, assolutamente. Ha chiuso in buon rialzo, ha ottenuto, come dicevi tu, attraverso la controllata Lane, questo contratto da 76 milioni di dollari, che comunque va, diciamo, a rinfoltire il suo portafoglio di lavori. Tra i titoli minori segnalerei anche due titoli dell'AIM: c'era Culti, che oggi esordiva, ha chiuso in rialzo del 5,7%, e poi Friendly Energy, che è stata sospesa per tutta la seduta, poi ha chiuso in rialzo del 15%. Qui Friendly Energy, ricordiamo, è una società che controlla principalmente impianti idroelettrici. Qui c'è l'offerta da parte di Edison per rilevare il controllo, verrà preso un 45% dagli attuali soci di riferimento, e poi ci sarà un'OPA sul mercato. Certamente. C'è un'ultima domanda. Siamo andati avanti per settimane con un grande interesse, perché ogni giorno erano le notizie a suscitarci questo interesse sul settore bancario. Ultimamente se ne parla poco, e soprattutto i mercati come stanno premiando o penalizzando i vari titoli delle banche in questi giorni, ma anche oggi, per fare un punto della situazione. Ma diciamo che oggi giornata fiacca anche per i titoli delle banche, che stanno vivendo un po' un momento di stanca dopo la forte attenzione delle scorse settimane legate in particolare alla crisi delle Venete. Certo. Oggi un titolo sotto i riflettori è stato sicuramente quello di Unicredit, su una notizia che tuttavia era comunque già scontata, cioè il fatto che sia stato ceduto un portafoglio di sofferenze di 17 miliardi a dei fondi per sostanzialmente valorizzarlo e gravare il bilancio della banca. Unicredit comunque ha chiuso in ribasso dello 0,6%. Perfetto, grazie al collega Ceo Condina, Radio Cori Il Sole 24 ore. Ricordo che dopo la sosta andremo a parlare di Venezuela, la situazione del paese in funzione anche della contraddizione tra un paese così ricco di materie prime e soprattutto di petrolio. Il petrolio oggi in calo a New York a 46-40 dollari, con un barile che perde lo 0,3% nelle prime contrattazioni, e la crisi del Venezuela vive, oltre ad una cattiva politica, e cercheremo di capire quali possono essere le possibili evoluzioni proprio ed anche a causa del crollo negli ultimi anni del greggio. Allora noi andiamo a fermarci dopo questa pagina dedicata ai mercati finanziari, ascoltiamo l'andamento e il momento delle strade, e poi di nuovo insieme. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo insieme 17:46 Focus Economia, l'ultima parte prima del GR delle 18 per quanto riguarda il nostro spazio. Andiamo a parlare ora, come già anticipato, della situazione in Venezuela. Lo facciamo anche grazie a Roberto Darin, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio a voi. Roberto, allora, aiutaci a capire il significato di questa consultazione popolare, che di fatto non è, se non sbaglio, una consultazione popolare ufficiale, ma è simbolica, ma ha un forte valore simbolico per l'opposizione. Dunque sì, questa è una consultazione che è stata autoconvocata dall'opposizione. Quindi bisogna prenderla con le pinze, perché naturalmente sia i dati dell'opposizione sia i dati del governo sono in qualche modo manipolati. Ciò detto, la consultazione sembra essere stata massiccia, perché avrebbero votato 7 milioni di venezuelani, ovviamente una quota importante, e il risultato sarebbe scontato: il 98% dei voti continanti sarebbe a favore della destituzione del presidente Nicolás Maduro. Ecco, già questo mostra quanto sia tutto parziale. È fuori discussione, tutti gli osservatori internazionali concordano sulla gravità della crisi in corso in Venezuela e sul fatto che il paese sia spaccato in due. Coloro che hanno votato sono stati sostanzialmente solo i supporter dell'opposizione, quindi coloro che contrastano la politica di Maduro. Che succederà ora? Nessuno può dire, perché la situazione evolve di giorno in giorno. Sì. Nei prossimi giorni tuttavia dovrebbe essere approvata una riforma costituzionale importante da parte del presidente Maduro, mirata a rafforzare il potere, accentrare il potere dell'esecutivo a scapito degli altri poteri, in altre parole a indebolire le caratteristiche costituzionali democratiche che vennero rafforzate paradossalmente da Hugo Chavez, che è stato il presidente che ha preceduto Nicolás Maduro. Quindi Roberto, sostanzialmente finalizzata ad indebolire Parlamento, se non sbaglio, ed esercito, che avrebbero più simpatie nel campo dell'opposizione. Parlamento senz'altro, l'esercito è spaccato perché fino ad ora comunque ha supportato il governo di Maduro, e diversamente non avrebbe potuto reggere la presidenza Maduro senza il supporto delle forze armate. L'equilibrio è quindi molto precario, perché sostanzialmente le due forze, governo e opposizione, si equivalgono in termini elettorali. L'aspetto devastante però e deflagrante è che l'economia venezuelana è in pezzi, l'inflazione è al 100% all'anno. Ecco, adesso no, Roberto, no, ti sentiamo con difficoltà. Adesso meglio? Adesso meglio, grazie. Ecco, no, dicevo, l'inflazione è al 600-700% annuo, quindi una percentuale altissima, e l'economia soffre gravemente del ribasso del prezzo del petrolio, perché non dimentichiamo che il Venezuela è un paese le cui entrate in dollari sono prevalentemente entrate da esportazioni petrolifere. Quindi quando il petrolio è su livelli sostanzialmente bassi come ora, il Venezuela patisce in modo particolare. Certamente. Ecco Roberto, ricordiamo, perché questo lo stai facendo tu, ma vorrei dare alcuni numeri che ci fotografano la situazione economica del Venezuela, che il greggio rappresenta quasi il 96% dell'export del paese ed è seduto sulle più grandi riserve petrolifere del mondo, 300 miliardi di barili, seconda l'Arabia Saudita con 264 miliardi. Questo per quanto riguarda la potenziale ricchezza. È vero che il prezzo del petrolio è crollato, addirittura un biglietto da 100 bolivar vale appena 2,6 centesimi di dollari, nel 2008 bastava per comprare 50 litri di latte, quando oggi servono 1800 bolivar per comprare comprarne appena un litro. Allora ti chiedo, che fine ha fatto la grande speranza, la primavera, se la vogliamo chiamare così, che aveva suscitato il precedente presidente, lo hai citato anche tu, Chavez, sembrava un nuovo condottiero vicino alle classi meno agiate per il Sud America, un esempio poteva essere per il Sud America. Dunque, il presidente Hugo Chavez ha effettuato delle scelte importanti che gli hanno dato una straordinaria popolarità in tutto il mondo. In Venezuela nessuno ne seguiva le sorti, con Hugo Chavez effettivamente ha saputo ritornare sotto i riflettori degli osservatori di tutto il mondo. L'idea era quella di affrancare dalla povertà una percentuale consistente di venezuelani, e lui ha istituito delle missioni, ovvero delle missioni, delle politiche sociali, scolastiche, previdenziali, sanitarie, mirate a consentire anche al buon ambiente di usufruire di servizi scolastici, certo, appunto, sanitari, previdenziali, decorosi, cose che prima non avveniva, e ciò è avvenuto effettivamente. Ciò detto, questo è un merito che gli va ascritto ed è un risultato che lui ha raggiunto. Dove invece ha fallito la politica di Chavez è stato nel costituire un tessuto economico che potesse affiancare i ricavi da petrolio, che è un tessuto economico di piccole e medie imprese che, almeno in forma embrionale, poi in forma sempre più definita e costituita, potesse in qualche modo presentare e sostenere l'economia venezuelana, che ha delle risorse anche umane notevoli, c'è una forte immigrazione di vecchia data comunque europea, una discreta scolarizzazione. Ecco, questa operazione a Hugo Chavez non è riuscita. Il Venezuela è rimasto un paese fortemente dipendente dal petrolio, e qui ne hanno scritto studiosi e scienziati sociali ed economisti da molti anni, soffre come altri paesi medio orientali della maledizione delle materie prime, ovvero una straordinaria ricchezza che non viene tradotta in un benessere stabile della popolazione, ma che subisce degli up and down, dei ribassi e dei rialzi solo in conseguenza dei prezzi internazionali del petrolio. Quindi un'economia troppo vincolata al petrolio. Qui ha fallito Hugo Chavez, il predecessore di Maduro, e poi ha fallito in un altro momento, sì, che è stato quello di conferire potere a persone non capaci, e ne avrebbe avute, ma fedeli. Certo. E quindi questo Nicolás Maduro si è distinto per delle operazioni politiche e economiche totalmente insensate, e la situazione del Venezuela dopo la morte di Chavez è ulteriormente peggiorata, e ora siamo in una situazione però Roberto Darin, collega del Sole 24 Ore. Roberto, da Chavez si passa a Maduro, abbiamo detto non c'è stata forse la capacità di un rinnovamento e di dare la guida alle persone più meritevoli, ma dove si è rotto poi il contatto tra la popolazione che votava Chavez e immagino abbia votato Maduro? Dove è stato il punto di rottura tra Maduro e adesso l'opposizione, che 7 milioni di persone che gli hanno votato contro? Dunque, il punto di rottura si è manifestato nel momento in cui il prezzo del petrolio ha cominciato a calare drasticamente. Quindi il punto si può identificare nell'inizio della inefficienza economica che Chavez aveva in qualche modo saputo tamponare, perlomeno per le classi meno agiate, meno privilegiate, con i servizi sociali di cui beneficiavano i più poveri. Certo. Ecco, quando anche i più poveri hanno cominciato a vedere che la loro l'assistenza messa in città da Chavez, la sanità, le pensioni, la scuola, ecco, anche tutto questo cominciava a sgretolare, Maduro si è visto costretto in un angolo sempre più misero di sostenitori, perché quantomeno tutte le classi sociali deboli che avevano sostenuto Chavez, sì, per più di 10 anni, a questo punto hanno preso le distanze da Maduro, e molti hanno cominciato a partecipare alle manifestazioni dell'opposizione pure essendo, pur essendo poveri. Quindi diciamo, ha saputo scardinare una solidarietà, uno zoccolo duro che, di elettorato che Chavez aveva saputo costruire. Invece la congiuntura negativa, il malgoverno e soprattutto i prezzi del petrolio in calo hanno di fatto fatto perdere consensi proletari anche. Un insieme di combinazioni, Roberto, che hanno messo in difficoltà il Venezuela. Ti chiedo una risposta brevissima. Ripercussioni sull'interscambio con l'Italia ve ne sono, o il Venezuela per il nostro paese rappresenta mediamente come gli altri? Allora, non abbiamo più Roberto Darin, io lo ringrazio comunque, e prima di dare la linea al giornale radio, ricordiamo brevemente, stiamo parlando del Venezuela, della difficoltà di questo paese ad uscire dalla crisi economica, un paese che si basa su una grande quantità di petrolio ma che non riesce evidentemente a trasferire poi questa ricchezza in una socialità maggiore. Allora noi ci fermiamo per il momento e diamo lo spazio al giornale radio delle 18. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19:10 qui su Radio 24. Focus Economia. Di nuovo insieme, Focus Economia 18:08. Io sono Vincenzo Miglietta. Parliamo adesso del bonus asilo nido. Da oggi è possibile presentare la domanda, richiesta che potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2017 via web, contact center o patronati. Ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Francesca Milano. Buon pomeriggio, Francesca. Buon pomeriggio a tutti, eccoci. Eccoci Francesca, allora il beneficio spetta ai genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016, residenti esatto. In Italia, ma vi sono poi tanti dettagli, tanti aspetti da dire su questo bonus asilo, aiutaci. Sì, assolutamente, prima di tutto bisogna ricordare che non è un bonus soltanto per gli italiani, c'è stata un po' questa polemica quando la legge era in via di approvazione, il beneficio è stato esteso quindi a tutti i residenti, compresi quindi i cittadini stranieri che risiedono in Italia e quindi che abbiano una carta di soggiorno regolare, ecco. Ci sono due tipologie di bonus che sono ammesse da questo provvedimento. Uno è appunto il bonus per l'asilo nido, quindi un contributo per la retta dell'asilo nido, sia asilo pubblico che asilo privato, va ricordato. E sì. Poi c'è un'altra forma di aiuto che si può chiedere, e che è quella destinata ai bambini fino a 3 anni che hanno esigenze certificate da un medico di un'assistenza a domicilio. Quindi in questo caso il contributo può essere utilizzato in questo modo. Ecco, parliamo di un premio di 1000 euro destinato, come dicevi, al pagamento di rette mensili per asili nido pubblici o privati o per forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche. Vi è tempo fino al 31 dicembre 2017. Quali sono poi le modalità proprio per riscuotere questi 1000 euro? Allora, bisogna ricordare che appunto c'è tempo fino al 31 dicembre, come dicevi, ma bisogna ricordarsi anche che in palio ci sono 144 milioni di euro, per cui bisogna anche affrettarsi, insomma, a fare la domanda, perché chiaramente le risorse sono limitate. Come dicevi, come ricordavi, si può chiedere questo beneficio, questa agevolazione, sia attraverso il sito dell'INPS che attraverso i numeri telefonici dell'INPS che l'INPS ha messo a disposizione, oppure attraverso i patronati che possono dare una mano. Il bonus di 1000 euro, come dicevi, viene ripartito in quote mensili se si tratta di dell'agevolazione per l'asilo nido, quindi il bonus viene suddiviso in 11 mensilità, oppure in alternativa se si chiede l'aiuto per i bambini fino a 3 anni con delle patologie croniche, in questo caso l'agevolazione viene concessa in una volta soltanto. Ecco, abbiamo questo plafond di 144 milioni a disposizione, quindi vi sarà un tetto. Vi è una priorità nel beneficiare poi queste domande, ovvero chi prima arriva è certo di avere poi questi 1000 euro qualora si dovesse poi sforare il plafond? Sì, anche perché questa agevolazione, a differenza di tante altre agevolazioni, non è legata all'ISEE, quindi non è legata al reddito della famiglia. Ecco, questo è un aspetto importante, certo. Esatto, non ci saranno delle graduatorie, ma chi fa la domanda e ha i requisiti necessari, quindi i requisiti corretti richiesti dalla legge, potrà beneficiare di questa agevolazione, sempre che appunto faccia in tempo a fare la domanda. È per questo che ricordiamo che a partire da oggi si può inoltrare l'istanza all'INPS. E questa, Francesca, stiamo parlando con Francesca Milano, collega del Sole 24 Ore, è stato anche un punto molto discusso e di polemica, perché in effetti potrà accedere a 1000 euro qualsiasi famiglia, indipendentemente dal proprio reddito. Sì, questo bonus appunto è un bonus che non dipende dal reddito, quindi dall'ISEE della famiglia, è un bonus per tutti i nuovi nati, così l'avevano chiamato inizialmente, insieme al bonus per le nascite c'era questo ulteriore bonus che appunto è per l'asilo, quindi un'agevolazione per le famiglie. Infatti si parla di asili pubblici o privati, quindi anche le famiglie che non sono riuscite a rientrare nell'asilo pubblico e quindi pagano la retta che sensibilmente più alta dell'asilo privato, possono usare questo piccolo sconto, questa piccola agevolazione in quei termini. Va ricordato una cosa importante, sì, che bisogna dimostrare di essere effettivamente iscritti a un asilo. Ecco, questo quindi... infatti te lo stavo per chiedere, sì, interessante. Sì, quando si fa la domanda sull'INPS, comunque c'è sul sito dell'INPS c'è scritto tutto, bisogna dimostrare, quindi certificare con un attestato la frequenza del bambino all'asilo, e solo in questo caso viene concesso questo contributo. Nell'altro caso invece, quindi nella forma di supporto presso l'abitazione in caso di bambini che abbiano problemi gravi, certo, in questo caso va provato lo stato di salute del bambino con un attestato medico del pediatra. Quindi l'INPS vuole i certificati, vuole la documentazione che attesti che la famiglia che richiede il bonus ne abbia effettivamente diritto. Quindi ecco, possibilità di iscriversi, di richiedere il bonus fino al 31 dicembre di quest'anno, ma i nati sono quelli anche del 2016, questo è bene ricordarlo? Sì, stiamo parlando dei bambini nati oppure adottati, perché anche in questo caso si ha diritto al bonus, quindi nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2016. E un'altra cosa, Francesca, anche qui elemento di polemica soprattutto politica, lo hai accennato, il bonus viene esteso anche a quei cittadini stranieri che hanno ottenuto comunque uno status di rifugiato o comunque hanno un permesso di soggiorno. Sì, assolutamente, infatti adesso stavo guardando proprio i documenti dell'INPS, si specifica che il bonus è concesso anche a chi ha il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, oppure una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea, o anche per i cittadini che hanno lo status, come dicevi tu, di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Ecco, qui rientriamo nei calcoli matematici, io non mi azzardo a farli al volo così, abbiamo 144 milioni a disposizione, 1000 euro quelli per ogni bambino, quindi alla fine quanti bambini potrebbero essere? Allora, anch'io non ho fatto il calcolo, ti devo dire che non ho fatto il calcolo, però dobbiamo anche specificare che forse è difficile fare il calcolo, perché certo, si parla di un importo massimo di 1000 euro, massimo, quindi certo, si potrebbe anche avere diritto a un importo inferiore. Benissimo, l'importo totale massimo nel migliore dei casi è 1000 euro che ripartite in 11 mensilità fanno, leggo qui sul sito dell'INPS, 90,91 euro al mese. Certo, certo. Grazie ancora Francesca Milano, collega del Sole 24 Ore. Io ricordo brevemente il 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, SMS, do la linea alle strade. Focus Economia. Alle 18:16, Focus Economia, di nuovo insieme, chiudiamo, ci avviamo verso la chiusura, l'ultima parte della nostra trasmissione dedicata al mondo del lavoro, un mondo del lavoro sempre molto difficile da interpretare perché abbiamo quasi a cadenza settimanale dei dati dei vari istituti, dati che ci presentano una settimana un'occupazione che cresce, la settimana dopo un'occupazione che diminuisce. Ora siamo alle prese oggi con un'indagine 2017 sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa pubblicata dalla Commissione Europea. Abbiamo anche dei dati nello specifico riferiti ai giovani fra i 15 e i 24 anni, abbiamo già anticipato qualcosa nella prima parte della trasmissione. Comunque, dicevamo, un mondo del lavoro difficile da interpretare. Allora chiediamo l'aiuto e lo ringrazio a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT. Buon pomeriggio Seghezzi. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Seghezzi, allora le rubo un minutino dando questi dati. Italia agli ultimi posti nella classifica OCSE sul mercato del lavoro, secondo i dati che mettono a confronto i paesi dell'organizzazione. La percentuale di occupati nel primo trimestre del 2017 in Italia era pari al 57,7% della popolazione in età lavorativa contro una media OCSE del 67,4%. Se rapportiamo questa media rispetto ai paesi del G7, i paesi del G7 hanno una media del 73, i paesi dell'Unione Europea hanno invece una media del 67,2%. Vediamo come l'Italia resta lontana da queste medie. Sono numeri che conosciamo bene, perché non riusciamo a spostarci da questa nostra situazione? Seghezzi. Allora, ci sono tante problematiche di ordine proprio storico, infatti quando emergono questi dati ci aiutano a guardare un attimo il quadro, il grande quadro, per cui i piccoli spostamenti di cui dobbiamo giustamente essere contenti magari mese per mese, poi diciamo che emergono all'interno di un disegno molto più ampio che continua da tempo. Abbiamo tanti elementi critici. Primo tra tutti una forte presenza del lavoro irregolare, che è una caratteristica del nostro mercato del lavoro. Si calcolano tra i 2 e 3 milioni di lavoratori in nero in Italia, quindi possiamo immaginare che se noi in qualche modo sommassimo questo numero di lavoratori in nero alle statistiche ufficiali degli occupati, non dico che avremmo delle statistiche normali o che rispondono ai target. Certo. Che ad esempio l'Europa ci ha dato del 2020, ma comunque aiuterebbe un attimo a capire perché in Italia in questo momento non c'è una rivoluzione, perché se ci fosse davvero così poca gente che lavora, il problema in Italia è, da un certo punto di vista, i 3 milioni di disoccupati, ma soprattutto i 14 milioni e mezzo di inattivi in età da lavoro. Certo, certo. Lei dice, se questi numeri fossero reali, vuol dire che vi sarebbe una parte consistente della popolazione in età attiva esclusa da qualsiasi attività, quindi senza un reddito, e ci si domanda come queste persone rimangano tranquille alla fine. Esatto, cioè ci sarebbe qualcosa che non va, evidentemente. Quindi la problematica del lavoro irregolare è uno. Poi ci sono altri elementi di natura culturale, ad esempio uno dei motivi per cui il tasso di occupazione in Italia è basso è che l'occupazione femminile è molto bassa. Certo. E su questo possiamo notare un dualismo molto chiaro tra nord e sud, per cui pur a fronte di un aumento dell'occupazione femminile, probabilmente data dalla crisi, che da questo punto di vista ha obbligato in qualche modo quei nuclei familiari in cui solo il marito lavorava e il marito ha perso il lavoro, ha fatto sì che anche le donne dovessero cercare un lavoro. Ma tutt'oggi, anche in una situazione più positiva, vediamo come il sud Italia abbia dei tassi di occupazione femminile veramente molto molto bassi, intorno al 40%, in certi luoghi anche più bassi del 40%. lo stesso vale sui giovani. Ecco, se, certo, giovanile. Certo, ma Seghezzi, lei diceva c'è un mondo del lavoro nero difficilmente individuabile, quindi non viene riportato poi in queste statistiche, un lavoro nero che anche tipico del nostro paese è quello di avere più lavoratori autonomi rispetto a lavoratori dipendenti rispetto ad altri paesi comparabili a livello industriale dal nostro, è qui che si può annidare più il lavoro nero? Allora, sicuramente, anche se negli ultimi tempi, questo è un trend europeo in realtà, ma in Italia possiamo giustificarlo per le ultime normative, ultimamente tutta quella componente, diciamo, di cosiddette false partite IVA, sì, a quelle mi riferivo, sì, è diminuita abbastanza, nel senso che il numero dei lavoratori indipendenti, come li chiama l'Istat, quindi gli autonomi, è calato negli ultimi anni. Questo può essere dato da un lato da un, diciamo, un'emersione di questo fenomeno di cui dicevamo, dall'altro da una serie di complicazioni burocratiche che ancora in qualche modo affliggono il lavoratore autonomo in Italia. Io penso che tanto del lavoro nero sia oggi nel lavoro part-time, sì, cui si fa il forte aumento del part-time involontario oggi può nascondere in qualche modo lavoro nero, perché abbiamo soltanto le persone vengono pagate regolarmente per la metà del lavoro che fanno e poi effettivamente poi magari lavorano a tempo pieno. Certo, certo. Così e qui, come certo. Ci sono certi settori in cui il lavoro nero è abbastanza caratteristico, diciamo così, quindi se senza stare a specificare che tipologia contrattuale c'è, autonomi o non autonomi, ma certo, il mondo dell'agricoltura, dell'edilizia, ovviamente non tutto, però ci sono alcuni mondi in cui diciamo che per sia culturalmente sia per il fatto che è difficile oggi con gli strumenti contrattuali che abbiamo gestire certa flessibilità, poi si vanno a utilizzare. Però ecco, Seghezzi, a questo punto la domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno, i dati che stiamo analizzando sono relativi al primo trimestre del 2017, se tengono conto secondo lei, almeno per quanto riguarda il nostro paese, dell'addio ai cosiddetti voucher, parliamo di lavoro nero e comunque questo strumento, per quanto abusato, aveva tentato di far emergere una parte di un mondo che se no non avrebbe lasciato traccia. Allora, i dati che abbiamo ad oggi, quelli che stiamo commentando adesso non ci permettono di dirlo, perché finiscono esattamente quando ci sono state le ultime modifiche sui voucher. Staremo a vedere adesso col fatto che lo strumento è cambiato, bisognerà aspettare direi almeno un semestre per capire poi qual è la reazione delle imprese all'introduzione del nuovo strumento. Sì. E rispetto a quello che dice lei, assolutamente, mi trova d'accordo. I voucher, per quanto abusati, se poi andiamo a analizzarli, e noi con ADAP abbiamo fatto un'analisi sulla base di microdati dell'INPS, si nota come tanti lavoratori, siano quei lavoratori o under 29 o over 50, che di solito fanno i cosiddetti lavoretti nero. Quindi ha avuto sicuramente una funzione di emersione del nero. Ecco, un altro aspetto nell'ambito dell'occupazione in generale è quello, ahimè, della fascia di età tra 15 e 24 anni, i nostri giovani già penalizzati da una disoccupazione molto, molto forte, ma sembrerebbe che in questa fascia d'età si sia persa un po' la speranza di trovare il lavoro, perché vi è un'alta percentuale di ragazzi che restano a casa, sono disoccupati e addirittura non cercherebbero un'occupazione. Secondo lei qui rientriamo anche qui almeno in parte nel cosiddetto lavoro nero, o veramente sono ragazzi che al momento hanno perso comunque un minimo di attrazione, di speranza verso il mondo del lavoro? Allora, qui è molto complicato, però io ritengo che la componente della perdita di speranza sia molto importante, perché se noi analizziamo questi dati insieme ai tassi di abbandono della scuola secondaria, che sono molto alti in Italia, sì, sì, è una cosa che uno non penserebbe, capisco, uno può capire i tassi di abbandono all'università, ma i tassi di abbandono del ciclo scolastico, certo, 15 anni sono molto elevati, e la componente NEET tante volte è alimentata proprio da questa parte, quindi da giovani che magari abbandonano perché capiscono da un lato che la scuola non è il loro spazio ideale, dall'altro per difficoltà oggettive delle famiglie di mantenere nuclei familiari ampi con dei redditi dati soltanto da un salario, e quindi poi finiscono tante volte all'interno di quella spirale del lavoro nero, fatto in questo caso più da piccoli lavoretti saltuari, non certo pagati a voucher, certo, invece che da un lavoro nero. Ma secondo lei, le chiedo poi una risposta abbastanza breve, i nostri ragazzi, come dicono alcuni, si sono abituati all'idea del posto fisso rispetto magari ai ragazzi del nord Europa, che secondo alcune indagini si prezzerebbero maggiormente a lavoretti cosiddetti saltuari? Non credo, io parlo per esperienza di persone un po' più giovani di me, non mi sembra che ci sia questa tendenza, anche se ritengo che ci sia un dualismo culturale molto importante in Italia anche su questo fronte, per cui ci sono certe città in cui in qualche modo alcuni fenomeni di innovazione eccetera si inurbano, e questo porta poi a avere una visione un po' più moderna delle transizioni sul mercato del lavoro, e altri luoghi invece con diciamo ascendenze più rurali di una storia italiana che ahimè non c'è più, sì, per cui la gente si aspetta promesse di un mondo che in realtà nel frattempo è passato e non ce ne si è accorti. Perfetto, io la ringrazio, grazie Francesco Seghezzi, direttore fondazione di ADAPT. Ricordo brevemente che la Giunta regionale della Basilicata ha autorizzato il riavvio delle attività del centro olio Val d'Agri di Viggiano, Potenza dell'Eni. Questa è una notizia molto importante. Ringrazio allora Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Roberta Frisani in regia. Un saluto e un arrivederci a domani da Vincenzo Miglietta. Radio 24. Libera la voglia di fare.